Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'agenzia europea Frontex sui migranti. Sull'Italia una pressione straordinaria, ma gli altri paesi non vogliono aprire i porti. Oggi trilaterale Gentiloni, Merkel, Macron. Padoan sulle banche, siamo ad una svolta per l'economia italiana. Patuelli dall'ABI in assemblea, indignazione per quello che è emerso, attendiamo i processi. Appalti truccati in alcuni comuni del Barese, indagato l'assessore regionale ai lavori pubblici, avrebbe accettato arredi domestici per la figlia per agevolare alcune pratiche, questo secondo i magistrati naturalmente. Incendi, ancora fiamme sul Vesuvio, non si fermano i roghi in Sicilia, Puglia e Calabria, per la siccità situazione critica in Emilia Romagna. Confessato Solomon, arrestato per aver ucciso la madre e la sorellina a Parma. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra diretta video sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. Tra poco verremo a parlare sicuramente della situazione degli incendi che sta diventando sempre più critica. Vi segnalo che tra l'altro ci hanno girato poco fa delle immagini veramente impressionanti da Tersigno e siamo alle pendici del Vesuvio e le abbiamo postate sulla nostra pagina Facebook e là se volete potete vederle e trovare e verificare voi in che situazione siamo. Tra poco ci arriveremo e daremo ampio spazio in questa edizione di Effetto Giorno, in questa puntata di Effetto Giorno, a quello che sta succedendo. Iniziamo però il nostro giro tra le notizie di oggi proprio dal tema dell'immigrazione. A Trieste si apre il vertice con i paesi dei Balcani, che è anche l'occasione di un incontro trilaterale tra Gentiloni, Macron e Merkel. Sono ore nelle quali torna ad aumentare il numero di sbarchi, con 1200 e più persone arrivate sulle nostre coste, mentre su questi temi interviene anche Frontex. Sentiamo. Il Viminale non canta vittoria, ma giudica comunque positivo il risultato raggiunto ieri a Varsavia. Dall'agenzia europea Frontex è arrivata un'apertura alla revisione della missione Triton. L'obiettivo è quello di migliorarla e dare un maggiore sostegno all'Italia, che è alle prese con una straordinaria pressione, ha detto oggi il direttore di Frontex, Leggeri, il quale ha però aggiunto che sulla richiesta italiana di sbarcare i migranti anche in altri porti europei, a Varsavia non sono arrivati segnali di disponibilità dai partner dell'Unione. È un problema complesso sul quale serve una decisione politica, ha spiegato Leggeri, che ha poi concordato sulla necessità di un codice di condotta per le organizzazioni non governative che partecipano ai soccorsi in mare di fronte alle coste libiche. Limitare il raggio d'azione delle navi delle ONG potrebbe mettere a rischio migliaia di vite, avvertono però Amnesty International e Human Rights Watch dopo aver visionato una bozza del codice proposto dall'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A proposito di migranti, è in corso il processo contro Osman Matamud, detto Ismail, il somalo di 22 anni fermato nel settembre scorso a Milano e poi accusato di aver sequestrato, ucciso e torturato e violentato decine di persone nei campi in Libia. E si stanno diffondendo anche le testimonianze delle persone che sono state sottoposte a queste violenze. Una delle presunte vittime di nazionalità somala, 22 anni, tra gli altri racconti che reso oggi al tribunale, ha detto ci legava i piedi con il fil di ferro e ci teneva testa in giù e se urlavi ti metteva la sabbia in bocca. Le violenze sarebbero avvenute nel campo di Bani Walid, vicino a Tripoli, appunto in Libia. Ed è presumibile che di migranti tornino a parlare oggi Paolo Gentiloni, Angela Merkel ed Emmanuel Macron, che si incontrano in un vertice trilaterale a Trieste, in realtà in occasione di un incontro con i paesi dei Balcani. Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, buongiorno a te. Simone, è tra due ore circa Gentiloni, Macron e Merkel si vedranno in questo vertice trilaterale che precede di un'ora il vertice più allargato dei Balcani occidentali. Il tema ovviamente dei migranti sarà centrale, specie dopo le decisioni ieri di Frontex, ma è la prima volta che i tre si vedono con questa formula appunto a tre e non allargata ad altri e sarà anche il momento forse dove Gentiloni cercherà di chiudere questo contenzioso che l'Italia ha con altri paesi, soprattutto la Francia che inizia sostanzialmente ha detto di no all'ingresso nei porti e poi seguita dalla Germania, quindi un vertice importante dal punto di vista politico che probabilmente dovrebbe portare a qualche risultato di cui effetti si vedranno poi in sede europea tra qualche giorno. E per ora da Trieste è tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Carlo Marroni di questi temi, ossia anche di immigrazione, è tornato a parlare il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, non si è soffermato solo su questo, ha parlato anche della situazione politica, del sostegno al governo Gentiloni. Un punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Si scatena Matteo Renzi alla presentazione del suo libro Avanti, a partire dai migranti. Continua a leggere scritte cose inesatte, precisa il segretario PD. Il regolamento di Dublino del 2003, governo Berlusconi, impone l'accoglienza nel primo paese in cui il migrante arriva. Nel 2015 provammo a cambiarlo, ma ci dissero di no. Riguardo poi alla differenza tra PD e governo, Renzi puntualizza ancora che non c'è alcuna divisione tra l'azione dei Dem e quella dell'esecutivo, non c'è oggi e non ci sarà per tutti i mesi da qui alla fine della legislatura. Il PD è l'unico antidoto a due populismi, quello del Movimento 5 Stelle e della Lega. Non vorrei che si attaccasse continuamente il Partito Democratico e l'unico modo per fermare il PD è attaccarlo dall'interno, e proprio dall'interno, da quello che erano gli ex interni, il caso D'Alema, che avrebbe portato con un patto insieme a Berlusconi per l'elezione del capo dello Stato, la fine del patto del Nazareno. Renzi precisa che D'Alema non partecipò all'incontro e quindi non può parlare di ipotesi fantasiose. Infine, le banche. Sappiamo che oggi arriva alla Camera il decreto sul quale il governo ha posto la questione di fiducia e Renzi dice: fu un errore affidarci alle valutazioni di Banca Italia. A te, Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Si diceva e si parlava di banche. Bene, oggi molto se ne è parlato all'assemblea dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, appunto. A seguirla c'era e c'è Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, e per il governatore di Banca Italia invece, dopo le crisi bancarie, ora il sistema è in sicurezza. Di questo che si è parlato oggi soprattutto all'assemblea dell'ABI. Ignazio Visco dice che le soluzioni delle situazioni aziendali dissestate e la ripresa economica stanno dissipando i rischi della tenuta del sistema. Crisi bancaria risolta nel rispetto delle regole. Sono state pienamente rispettate la normativa e le procedure europee. Il supporto pubblico va considerato nella sua natura di intervento necessario, connesso con particolari condizioni di fallimento del mercato, ma eccezionale. Il sistema bancario è in sicurezza anche per il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, che riconosce al governo di aver eliminato i rischi sistemici e si dice però indignato dagli sviluppi di alcune crisi bancarie. I responsabili, aggiunge, vanno perseguiti. Debbono essere tempestivamente accertati e perseguiti tutti i responsabili delle crisi bancarie senza clima di caccia alle streghe. L'assemblea dell'ABI è stata chiusa dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha difeso il lavoro fatto fino ad oggi dal governo sia sul fronte economico sia sul fronte bancario. Il sistema bancario è una svolta, ha detto Padoan, e può e deve diventare una componente fondamentale per la crescita. Una crescita che è nata dal 2014 e è necessaria anche per la tenuta dei conti pubblici. Sentiamo Padoan e poi la linea torna allo studio. L'accelerazione della crescita si è accompagnata ad un bilancio pubblico in aggiustamento progressivo. Rimane chiaro che la crescita è la via maestra per ridurre il debito, frenarne la dinamica prima e invertirne l'andamento poi. Siamo alla cronaca italiana, iniziando a parlare di appalti. Appalti, c'è stata un'operazione importante questa mattina nel Barese che vede coinvolto tra l'altro anche un assessore ai lavori pubblici. Sentiamo. Un sistema corruttivo ben collaudato, infiltrato nella pubblica amministrazione, che contava sulle possibilità di gestire appalti grazie alla procedura negoziata. 12 arresti questa mattina in provincia di Bari, in manette il sindaco di Altamura, Giacinto Forte, esponente del centrodestra, il vice segretario del PD di Acquaviva delle Fonti, Roberto Ottorino Tisci, che avrebbe avuto il ruolo di intermediario, e l'imprenditore albanese Bertin Sallaku, che avrebbe offerto denaro per entrare negli appalti dei comuni coinvolti. Tra gli indagati dell'inchiesta coordinata dai PM Claudio Pinto e Marco D'Agostino, anche l'assessore regionale ai lavori pubblici Giovanni Giannini, nei cui uffici in mattinata è stato eseguito un decreto di perquisizione. L'operazione Pura Defluit è ancora in corso da parte dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari e dei carabinieri del comando provinciale. Agli indagati vengono contestati reati di corruzione e turbativa d'asta. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di indagini svolte su un consolidato sistema di corruzione di pubblici ufficiali e di alterazione delle procedure di affidamento dei pubblici appalti nel Barese. Si attendono ulteriori sviluppi. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E veniamo adesso alle cronache dagli incendi. Siamo in diretta con Roberta Pellegatta. Roberta, buongiorno. Buongiorno, purtroppo questa è un'estate da dimenticare per il Sud Italia dal punto di vista dei roghi. Ci sono incendi in Sicilia, Messina, Denna, Palermo, nel Gargano, in Basilicata, in Calabria, in Campania brucia ancora il Vesuvio. Una situazione che rende il 2017 l'anno peggiore da questo punto di vista. Il record finora era appartenuto al 2007, l'anno dell'incendio del Gargano. Gli ultimi aggiornamenti parlano di due roghi scoppiati a Catania che minacciano alcune abitazioni. Nella notte nuovi incendi dolosi anche a Lipari sono stati spenti solo stamattina dopo 9 ore di lavoro dei vigili del fuoco, qui di sicuro 3 chilometri di macchie mediterranee sono andati in fumo. Incendi nella notte che hanno creato panico tra i cittadini anche in Calabria, Taverna, nella Presila Catanzarese, dove ancora sono in azione un canadero e un elicottero. A Messina per fortuna dopo 3 giorni di fiamme la situazione è tornata sotto controllo, anche se i danni provocati sono incalcolabili per ora, con 2000 ettari di colture andate a fuoco. E continua ad essere drammatica la situazione intorno al Vesuvio, dove sono 3 gli incendi in atto in questi minuti, a Ottaviano, a Torre del Greco ed Ercolano. Quest'ultimo rogo starebbe interessando anche il territorio di Massa di Somma, con diversi focolai visibili. Una situazione sottovalutata, lamentano i residenti, che parlano di fumo che arriva fino nelle case, alcune delle quali sono state evacuate, così come è successo per 2 ristoranti. Pomeriggio il ministro dell'Ambiente Galletti sarà ad Ottaviano per una riunione operativa. A favorire le fiamme senz'altro la siccità eccezionale di quest'anno, unita al caldo e al vento, ma si sa che tantissimi sono gli episodi di dolo. Il Mattino di Napoli fa sapere che i carabinieri forestali sul Vesuvio hanno individuato 8 inneschi, tutti partiti nello stesso momento da zone difficilmente raggiungibili. L'ipotesi è che i piromani usino gli animali, ad esempio i gatti, cosparsi di benzina e dati alle fiamme per espandere gli incendi. E per il momento è tutto. Grazie dunque a Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. Più avanti vi ricordo che torneremo nei luoghi nei quali gli incendi stanno colpendo. Andremo a parlare col presidente dell'ente Parco del Vesuvio, col sindaco di Terzigno, col sindaco di Ottaviano. Stiamo cercando di rintracciare anche il sindaco di Torre del Greco e qualcuno dell'amministrazione. Comunque lo sentiremo per farci dare un quadro della situazione e andremo anche in Puglia. Oltre all'emergenza incendi però c'è anche quella siccità che colpisce tutto il paese, se ne è discusso oggi nel corso degli stati generali dell'AMBI, che è l'associazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione. Se al sud invasi e canali stanno aiutando a sostenere l'agricoltura, al nord la crisi è nera. Francesco Vincenzi, presidente dell'AMBI, al microfono di Laura Bettini. Al centro nord utilizziamo ancora oggi dei laghi alpini che lasciano l'acqua man mano fin quando ce ne hanno all'interno dei grandi fiumi. Non possiamo più agire solo ed esclusivamente in emergenza o sperando nella parzialità di una pioggia, ma dobbiamo programmare con un piano pluriennale di adeguamento degli impianti irrigui da una parte e un programma pluriennale per costruire quegli invasi necessari per aumentare la capacità di trattenimento dell'acqua in tutto il nostro paese. Gli abbiamo proposto un 20 anni, 20 miliardi. Credo che siamo pronti immediatamente con 218 progetti cantierabili, in particolare al centro-nord, per andare a alleviare quei territori, ma soprattutto per andare a dare l'acqua a quell'agricoltura che, se vuole continuare a crescere nei numeri, nell'export e nell'occupazione, ha bisogno di acqua per poter operare. Di cosa hanno bisogno questi progetti per prendere via? Abbiamo bisogno che stiamo strutturando la misura, stiamo strutturando come fare a intercettare le risorse, ma soprattutto come fare a strutturare la capacità di spesa del nostro paese. Questo è il quadro da incendi e siccità. Noi restiamo sulla cronaca per la vicenda di Parma. Ha confessato il giovane accusato di aver ucciso la madre e la sorellina. Anna Marino, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. La notizia appunto di poco fa, ha confessato alla fine Solomon Niantaki, questo giovane fermato a Milano dalla polizia per il duplice omicidio avvenuto a Parma. Il PM sta predisponendo il decreto di fermo nei suoi confronti, è stato riconosciuto e fermato ieri sera dalla Polfer alla stazione centrale di Milano. Questo giovane era stato riconosciuto attraverso un fotogramma inviato dalla Polfer della stazione di Parma, fotogramma in cui compariva mentre saliva sul treno la donna, la madre, 45 anni, era tornata da poco da una breve vacanza in Ghana, paese di origine, era da tempo residente in Italia, era incinta. Ieri sera lei e la figlia di 11 anni, la piccola Magdalena, nata qui, sono state trovate uccise con molte coltellate o forse con un altro oggetto contundente verso le 21 nel loro appartamento in via San Leonardo, nella prima periferia di Parma. Il secondo figlio della donna, Solomon Niantaki, era una promessa del calcio, 21 anni, una promessa mancata sembra per problemi comportamentali, tanto che fu convocato in prima squadra diverse volte da Donadoni nell'anno del crack del Parma FC, aveva esordito nelle giovanili del Parma e aveva vinto uno scudetto allievi insieme a nomi diventati famosi come quelli di José Mauri e Alberto Cerri. Ad accorgerci del duplice omicidio è stato il terzo figlio della donna, Raymond, con 25 anni, quando è tornato a casa dopo una giornata di lavoro. Il padre di questa famiglia ormai devastata non era in Italia mentre succedeva questa tragedia, e in Inghilterra per ragioni di lavoro, ed è tutto. Grazie dunque anche ad Anna Marino per questo aggiornamento. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi gran parte della puntata di oggi di Effetto Giorno dedicata alla drammatica situazione degli incendi. Qualcuno sul commentando la nostra diretta, che come sempre su Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24 e su quella di Effetto Giorno, dice: ma la situazione del Vesuvio è drammatica, perché non ne parlate? Lo abbiamo detto, ne parliamo proprio tra un attimo, e tra un attimo andremo sul territorio, sentiremo il presidente dell'ente parco, sentiremo i sindaci, ci faremo raccontare la situazione. Se volete farvi un'idea, tra l'altro, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Giorno abbiamo messo, e tra poco le metteremo anche sul sito di Radio 24, le immagini che ci sono arrivate proprio da Tersigno, e sono oggettivamente delle immagini impressionanti. Traffico a tra poco. Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp, e poi la diretta video su Facebook. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di migranti e di quello che ha detto l'agenzia Frontex, del ministro dell'economia Padoan che interviene sulle banche, l'assemblea dell'ABI, degli appalti truccati in alcuni comuni del Barese. Abbiamo parlato di incendi, di siccità. Ed è proprio dagli incendi che ricominciamo e iniziamo il nostro giro per l'Italia. In una giornata che dedicheremo, almeno in questa puntata, quasi esclusivamente a questo, quasi esclusivamente alla situazione degli incendi, perché la situazione è al momento oggettivamente drammatica, soprattutto in alcune zone del paese e soprattutto nell'area del Vesuvio. Saluto Francesco Ranieri, che è sindaco di Tersigno. Salve, buongiorno. Ci dà un quadro della situazione da voi, gentilmente? La situazione è drammatica. Abbiamo bisogno di velivoli che ci supportino, perché da terra non riusciamo più a tamponare. C'è un ottimo lavoro, devo ringraziare i volontari, la SMA Campania, i vigili del fuoco che stanno facendo un lavoro immane, però la situazione incomincia ad essere molto pericolosa e abbiamo bisogno di una mano. Veramente ho sentito la Protezione Civile Nazionale, mi ha garantito che a breve sorvoleranno finalmente i nostri cieli ben 5 velivoli. Pericolosa, sindaco, nel senso che si rischia che vengano minacciate le abitazioni, ci sono delle persone a rischio, avete fatto evacuare? Per il momento ancora no, perché come le dicevo, da terra stiamo cercando in tutti i modi di tamponare. Noi siamo convinti che con un lavoro forte da parte di mezzi aerei possiamo quasi totalmente risolvere il problema. Volevo ribadire quindi smentire le false notizie sull'incendio di Cavasari, sull'incendio dell'impianto di biogas. Io sono proprio in Cavasari e le dico che è sotto controllo, ci sono del fuoco a presidiare, c'è un ottimo lavoro dei dipendenti della Sappana. Quindi volevo smentire queste false notizie, perché hanno creato nei miei cittadini un falso allarmismo. Sì, è un po' di panico, presumibilmente. Sì, un po' di panico, che dico che in questi momenti non aiuta. Esattamente quello che non serve, ovviamente. Allora, sindaco, noi la lasciamo al suo lavoro e all'impegno anche per i suoi cittadini. Grazie a Francesco Ranieri, sindaco di Tersigno, e saluto Agostino Casillo, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Casillo, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno per modo di dire, naturalmente, perché sta... Per convenzione, ecco. Sì, per convenzione, bravissimo. Le fiamme stanno colpendo praticamente tutti i comuni dell'area. Sì, diciamo che siamo di fronte ad un evento che però va detto è un evento criminale, questi focolai che ci sono stati accesi in vari punti proprio per rendere più difficili le operazioni di soccorso. Quindi io sto chiedendo con forza un intervento di tutte le forze disponibili dello Stato adesso per spegnere l'incendio, ma poi ci vuole pugno duro contro questi criminali che hanno attentato una delle aree protette più belle del nostro paese. Inneschi, mi pare che ne abbiano ritrovati 8 finora i vigili del fuoco, no? Guardi, questa sono, come dire, sono gli inquirenti al lavoro. Io ho massima fiducia in loro e spero veramente che si riesca a risalire ai responsabili. Ascolti Casillo, che cosa, quanti ettari, siete riusciti a farvi un'idea di quanti ettari siano andati in fumo finora, posto che gli incendi sono ancora attivi, i roghi sono ancora attivi? Sì, è proprio per questo, insomma, il protocollo, i carabinieri forestali mi dicevano che poi soltanto quando il fumo saranno finiti avvieranno le misurazioni e poi come da protocollo ci informeranno, insomma, informeranno l'ente parco sull'entità dell'incendio. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Le chiederei un'ultima cosa, Casillo, ed è forse la domanda che ci stiamo facendo in molti e che sicuramente ci stiamo facendo all'interno delle redazioni, conoscendo come sono cambiate le leggi negli ultimi anni. Ma come mai vengono bruciate queste fette di territorio, visto che la legge di fatto impone che, no, dopo che non si possa costruire, no, dopo almeno per un certo periodo di anni su quel territorio? Cioè, un tempo dicevamo le persone danno fuoco a queste aree, anche a delle aree verdi, perché poi queste aree possono diventare edificabili e così via, mentre invece la legge prevede che questo non avvenga più. Come mai questi criminali danno fuoco a queste aree, Casillo? Guardi, è proprio la domanda a cui sto cercando una risposta, e che però ovviamente non può che venire dalle indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, perché attualmente, diciamo, quello che è chiaro è che comunque c'è una mano dell'uomo, però il movente che ovviamente anche lei ha interesse a sapere, ma come tutta l'Italia, perché ovviamente questa lo state seguendo, c'è un fenomeno che sta riguardando tante altre regioni e quindi è importante riuscire a risalire a queste cause. Casillo, ultima cosa, lei incontra Galletti oggi pomeriggio, no? Il ministro sì, Galletti. Aspettiamo il ministro qui presso la nostra sede alle 4, il ministro l'ho già sentito per telefono, mi ha detto estrema vicinanza e impegno per risolvere adesso la situazione, perché è importante che lo Stato adesso ci sia una mano. Io colgo l'occasione per ringraziare però tutti gli uomini e le donne dello Stato che si stanno dando veramente con il cuore per salvare la nostra area protetta. La ringrazio, grazie Agostino Casillo, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, e rimaniamo in zona e andiamo ad Ottaviano, tra l'altro è proprio là che si dovrebbe svolgere la riunione operativa con Galletti e siamo in linea con il sindaco Luca Capasso. Sindaco, buongiorno anche a lei, per convenzione, perché per voi non è una buona giornata evidentemente. Buongiorno a voi, sì. Ci dà un'idea. La verità non è stata neanche una bella nottata. Come è stata la nottata e com'è la giornata? La nottata è stata a svegli con un drone che controllavamo la distanza tra il centro abitato e le fiamme per essere tranquilli da non dover evacuare. La mattinata è ancora dura perché comunque non ci sono mezzi e uomini. Finalmente qualcosa si è mosso stamattina alle 7:05 è arrivato il primo canader. Adesso stiamo lavorando con la protezione civile. Il Presidente ringraziava, sentivo gli uomini di Stato, gli uomini e donne dello Stato, che io ringrazio, però un ringraziamento particolare va a tutti i volontari delle protezioni civili del Luco. Ci sono rischi adesso per la popolazione, Capasso, oppure no? No, per adesso no, almeno sul fronte Ottaviano no, gli altri Bosco Trecca, Sercolano, ho saputo che ci sono problemi. Bosco Trecase ed Ercolano, magari adesso proveremo a vedere se riusciamo a raggiungere qualcuno anche là per avere un quadro della situazione anche da loro. Capasso, le giro la domanda, visto che lei conosce il territorio, è una persona che sta là, è un sindaco di quella zona, le giro la stessa domanda che ho girato al presidente del parco. Secondo lei come mai vengono appiccati questi roghi? Allora, una domanda mi hanno fatto tempo fa, anzi 10 minuti fa, un giornalista, e mi ha detto: perché appiccano i fuchi sull'ente parco? Perché ci sono gli abusi? Gli abusi non sono nell'ente parco, ci sono alcuni abusi dell'84-95 con condoni presentati. Ovviamente a quell'età io ci avevo ancora 3 anni, c'è un problema che non credo che sia quello il problema. Nel momento in cui vado a chiedere mezze uomini, mi ci viene criticato dicendo che praticamente è troppo comodo. Veramente una cosa vergognosa. Detto ciò, io credo che comunque c'è una mano criminale che comunque ha artato tutto questo. Il motivo, sinceramente, non lo so. Ma sicuramente si è leso probabilmente qualche interesse particolare nel momento in cui si percorre la strada della legalità. Lei dice questo, cioè, potrebbe essere un'operazione di vendetta, per così dire? Io credo di sì. La ringrazio, grazie Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, e ci spostiamo su un altro territorio, poi magari torneremo, appunto cercheremo di tornare nelle zone più colpite della Campania, ci spostiamo in Puglia e siamo in linea con Lucia Di Lauro, che è il capo dipartimento della Protezione Civile. Di Lauro, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Qual è il quadro da voi? Il quadro da noi è, diciamo, ancora critico. Le giornate più critiche sono state in verità lunedì e martedì. Abbiamo avuto incendi, circa 103 incendi nella sola giornata di martedì, lunedì 141 addirittura. Oggi alle 13 sono 40 incendi. Abbiamo domato gli incendi molto critici sul Gargano. Ma ci sono altre situazioni che comunque per fortuna oggi vengono dominate, quindi non ci sono per la giornata di oggi criticità, forti criticità, ecco. Il tempo che cosa vi dice? Perché poi anche questo è un elemento, certo. È un elemento che conta, perché se tira vento il problema manterranno moderati. Per quanto invece attiene alle temperature, non ci sono variazioni di rilievo, quindi sono temperature da elevate a molto elevate anche per i giorni prossimi. Giovedì, quindi da giovedì venerdì comincerà a diminuire, però è evidente che diminuiscono sempre in un range moderato elevato, quindi avremo soprattutto nell'Alta Murgia, nel Subappennino, oggi ci sono temperature oltre i 33 gradi, e domani e dopodomani nel Tarantino e nel Brindisino si prevedono ancora temperature molto alte, leggere diminuzioni per la fine della settimana. Quindi diciamo che la situazione siamo fiduciosi per la fine della settimana, però diciamo le temperature sono alte. Dobbiamo prenderne atto. Ultima domanda, avrà sentito Di Lauro, perché era in linea mentre sentivamo il presidente del Parco del Vesuvio, così come i sindaci del territorio. Le vorrei chiedere questo: se vi siete fatti un'idea di quanti di questi roghi che avete avuto in questi giorni possono essere dolosi e quanti invece colposi? Guardi, storicamente l'incendio doloso è quello che ha la percentuale maggiore, quindi noi pensiamo che siano dolosi anche quelli che stanno avvenendo in questi giorni in Puglia. La ringrazio, grazie. Niente. Lucia Di Lauro, capo dipartimento della Protezione Civile della Puglia. Appunto, ci andiamo a fermare a sentire cosa succede sui mercati e poi ritorniamo anche nelle aree del napoletano colpite da questa situazione critica. Vedremo se riusciremo, cioè Laura Faggin dall'altra parte del vetro che sta lavorando intensamente per capire se riusciamo a raggiungere qualcuno, magari ad Ercolano, dove ci dicevano che la situazione è particolarmente critica. La pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: l'agenzia Frontex sui migranti dice sull'Italia una pressione straordinaria, ma gli altri paesi non vogliono aprire i porti. Oggi trilaterale Gentiloni, Merkel, Macron. Padoan sulle banche, siamo ad una svolta per l'economia italiana. Patuelli dell'ABI in assemblea, indignazione per quello che è emerso, dice, ma attendiamo i processi. Appalti truccati in alcuni comuni del Barese, è indagato l'assessore regionale ai lavori pubblici, avrebbe accettato arredi domestici per la figlia per agevolare alcune pratiche, questa secondo la tesi dei PM. Ha confessato Solomon, arrestato per aver ucciso la madre e la sorellina a Parma. E poi gli incendi, avete sentito le cronache fino adesso, ancora fiamme sul Vesuvio e roghi anche in Sicilia, Puglia e Calabria. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. Ci potete trovare, se volete potete commentare anche là. Qualche ascoltatore ci scrive a proposito della situazione. Massimo da Torino ci dice: guardate che nel Messinese ci sono da giorni incendi pazzeschi, molto più che nella zona del Vesuvio. Ora non so se siano molto più che nella zona del Vesuvio, è un po' difficile misurare queste cose quando si è in luoghi diversi. Di certo, ieri della situazione nel Messinese ne abbiamo parlato, e ne abbiamo parlato, lo ricorderete, se Massimo è un ascoltatore come dire abituale di Effetto Giorno, avrà sentito che ne abbiamo parlato con l'assessore regionale siciliano. Di certo, per quel che riguarda la giornata di oggi, vi posso dire che i roghi sono ripresi anche a Messina per il quarto giorno consecutivo. Un nuovo rogo si è sviluppato, le notizie che ci arrivano sono queste, nel rione di Sperone, e le fiamme stanno lambendo le case, e un altro incendio si sta sviluppando nel villaggio di Salice, dove sono attivi i Canadair. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro gli atti incendiari ancora contro ignoti. Il presidente del Parco di Nebro, di Giuseppe Antoci, che ieri aveva chiesto l'arrivo dei cacciatori e dei carabinieri, oggi conferma, dopo un colloquio con i vertici dell'arma, che gli è stato garantito che oggi arriverà il reparto speciale dei militari dell'arma. Il punto qual è qua? È quello del quale vi abbiamo raccontato poco fa, anche parlando con i sindaci dei comuni del Vesuviano, ossia cercare di di trovare le persone che hanno appiccato esattamente questi incendi. Come avete sentito, tra l'altro, come ci ha raccontato nella prima parte della trasmissione la nostra Roberta Pellegatta, anche con modalità terribili, perché non solamente gli inneschi, ma come ci raccontava Roberta Pellegatta, e qualche ascoltatore tra l'altro sottolineava questo dettaglio terribile, ce lo ha sottolineato scrivendoci su WhatsApp, a quanto pare alcuni di questi roghi sono stati appiccati e fatti diffondere, cospargendo di benzina dei gatti e dando appunto fuoco a dei gatti, e quindi facendoli poi muovere, evidentemente scappare, e alimentando ulteriormente le fiamme. Siamo in linea con Calogero Foti, capo del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana. Buongiorno Foti, benvenuto. Prego, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi sembra che la situazione sia tornata abbastanza critica in alcune aree del Messinese, ho capito bene? Abbiamo alcune aree del Messinese, del Palermitano, del Trapanese e del Siracusano, che in atto sono particolarmente interessate da atti incendiari. Quanti roghi ci sono al momento? Ma guardi, sono parecchi, diciamo i più gravi, che richiedono insomma un'attenzione più particolare, diciamo sono circa una decina, però abbiamo realmente parecchi fronti accesi che richiedono forze da terra, e in qualche caso hanno richiesto l'intervento aereo per poter fronteggiare nel modo più ottimale possibile queste situazioni. Ci sono persone a rischio, Foti, che lei sappia? Tutte quelle che sono state considerate a rischio o che potevano in qualche caso agevolare con il loro allontanamento le forze che operano in atto sono state tutte fatte evacuare. Quindi diciamo persone che in questo istante, di cui si teme per la loro vita o per danni alla persona, in questo istante non ce n'è, solo e soltanto perché sono state appunto fatte evacuare. Che cosa vi dice il meteo, Foti? Beh, oggi è una giornata sicuramente critica, dopodiché di qualche grado le temperature fortunatamente dovrebbero andare in diminuzione, e conseguentemente speriamo in una situazione migliore. E il vento? Beh, il vento, che è l'altro elemento, lo ricordo sempre agli ascoltatori, è l'altro elemento, perché poi fa sì che le fiamme si spargano, si propaghino più o maggiore velocità, non c'è ombra di dubbio. Anche su questo, insomma, speriamo in una situazione migliore nei prossimi giorni. Ultima domanda, immagino che la risposta sia più o meno la stessa che ci ha dato la sua collega dalla Puglia che abbiamo sentito poco fa e che ci hanno dato i sindaci dei comuni del Vesuviano che abbiamo sentito ancora prima. Immagino che gran parte di questi roghi siano dolosi da quel che siete riusciti a verificare. Personalmente non ho dubbi su questo. È chiaro che non ho elementi, però il fatto che parecchi focolai vengono innescati in punti prossimi ad un incendio più grande e con una frequenza e ripetitività, è chiaro che fa venire il dubbio. Ipotesi secondo voi, oddio, forse non è a lei che lo devo chiedere, ma ai magistrati, però l'ipotesi, il punto è questo: ci siamo chiesti prima perché, visto che c'è una legge che prevede che sopra non ci si possa costruire per un tot di tempo, chi potrebbe esserci dietro a questi roghi? Criminalità organizzata? Chi? I forestali stessi? Guardi, o c'è una mafia del pascolo o c'è evidentemente qualcuno che è malato e che gode di questi spettacoli o c'è chi ha un interesse differente più o meno camuffato da altri fatti. La ringrazio per questo. È difficile. Le ipotesi obiettivamente sono tante, ma primo tra tutti sicuramente c'è chi vuole male a questo territorio in modo abbastanza evidente e io dico sempre che sono risorse che vengono sottratte allo sviluppo di questo territorio, un territorio che è bellissimo e che avrebbe bisogno di una maggiore cura anche da parte dello stesso cittadino che deve diventare sentinella del territorio, segnalando qualunque anomalia lui riesca a intravedere per così consentire alle forze di polizia di fare le opportune azioni. Grazie a Calogero Foti, capo dipartimento della Protezione Civile Siciliana, anche per questa risposta non scontata. Allora, io la ringrazio. Noi adesso andiamo a chiudere questa puntata di Effetto Giorno, o meglio, a chiudere. Prima andiamo a sentirci, come al solito, il traffico, Mario Platero e poi, alla fine, per i saluti.